Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, questa sera parliamo di mercati finanziari, parliamo di informazione finanziaria e lo facciamo con Bianca Fersini Mastelloni. Buonasera. Buonasera. Bianca Fersini Mastelloni opera da diversi anni nell'investor relation, nella comunicazione economica finanziaria per società quotate a piccola e media capitalizzazione e ha scritto per l'editore Guerini questo libro Investor Relations ed etica, efficacia e vantaggi competitivi. In un momento in cui i mercati finanziari sono spesso criticati per essere stati un po' alla base anche della grande crisi economica globale, ecco, parlare della necessità di dare trasparenza, di dare capacità ed efficacia ai mercati finanziari è sicuramente importante. È in questa prospettiva che si muove questo libro, Bianca Fersini Mastelloni? Sì, esattamente, esattamente. Quindi è un libro che parla della sua esperienza concreta. Quali sono i punti di fondo da cui è partita per questa analisi? Ma intanto abbiamo voluto condividere quella che è stata la nostra esperienza inoltre 15 anni di comunicazione specifica in questo settore e la nostra visione dell'investor relation. Alla base di tutto ci dovrebbe essere l'etica e la fiducia che sono sia la base di tutti i rapporti personali che aziendali, oltre che di quelli strettamente finanziari, mentre invece, come già lei diceva prima, la grande assente dallo scenario che ha prodotto una crisi internazionale è stata proprio l'etica. Partendo quindi dalla considerazione che appunto cos'era importante, quali erano i nuovi così obiettivi, cosa potevamo fare di nuovo, abbiamo voluto ridefinire un pochino quelli che potevano essere i rapporti tra le aziende e gli investitori secondo una condotta più etica. Quando si parla di etica, di necessità di etica, vuol dire in fondo ammettere che di etica negli ultimi anni c'è stata un po' di carenza. Onestamente sì, se noi andiamo a guardare, a leggere quelli che sono stati i grandi scandali finanziari, direi che alla base c'è stata una grandissima carenza etica. E oggi si vive in un'economia reputazionale in cui le aziende e gli operatori dei mercati non possono più fare a meno di preoccuparsi di quella che è la loro condotta. E hanno maggiori opportunità se la loro condotta nel tempo è una condotta etica e se le aziende dimostrano una maggiore responsabilità sociale nei confronti della comunità nella quale operano. Ecco, l'etica indubbiamente è qualcosa che va applicata, che va tenuta presente e dipende da due fattori. Da una parte dalle regole che impongono certe caratteristiche alla comunicazione finanziaria, dall'altra dai comportamenti, perché ogni singolo operatore poi all'interno di questo mercato deve muoversi secondo certi principi. Mancano più le regole o mancano più i comportamenti? No, secondo me mancano di più i comportamenti, perché l'etica non si può, come dire, racchiudere in un determinato comportamento. Le regole morali nascono principalmente da se stesse e poi possono essere anche estese alla condotta delle aziende. Quindi sicuramente le regole, le leggi aiutano, le regole morali, generalmente le regole etiche sono qualcosa che è stato applicato nel tempo e che è stato condiviso nel tempo e quindi sicuramente aiutano, ma il fondamento deve essere la base etica personale che poi viene estesa a tutti i comportamenti sociali. Ecco, la prefazione di questo libro, lo ricordo, Investor Relations ed Etica, è scritta da Gioacchino Amato, che all'interno della Consob segue appunto la divisione mercati, e Amato sottolinea appunto che in determinati casi il mero rispetto delle norme di legge non è sufficiente a fornire un'adeguata tutela ai fruttori dell'informazione. Scrive ancora Amato: un emittente che impronti a etica la propria condotta informativa avrà al tempo stesso salvaguardato la propria reputation e migliorato il livello di efficienza complessiva del sistema. E aggiunge Amato: la recente crisi finanziaria, che probabilmente affonda le proprie radici in una crisi valoriale e morale, ha visto assottigliarsi la categoria sia di chi domanda capitali, quindi gli emittenti, sia di coloro i quali detengono un capitale e vogliono investirlo, ossia gli investitori. Quindi la finanza ha provocato la crisi, ma poi la crisi si è ribaltata contro la finanza e adesso la finanza, lo vediamo anche per esempio nel numero di società quotate che si è assottigliato moltissimo negli ultimi anni, sembra avere una minor presenza di prima. Assolutamente sì, sono d'accordo con quello che dice il dottor Amato e quello che stava dicendo lei adesso, ma la crisi è stata dovuta anche alle stesse aziende che in una qualche maniera hanno ingannato spesso negli anni, l'abbiamo visto ultimamente anche Parmalat, uno dei più recenti scandali italiani, ma tantissimi scandali americani, molti, molti scandali americani che sono stati indicati nel libro e che hanno le loro radici non tanto nella finanza in quanto tale, ma nella condotta delle stesse imprese che falsificavano i bilanci, che quindi hanno ingannato non solo i propri interlocutori interni, quindi i loro clienti, i loro dipendenti, ma per tutti gli investitori, assolutamente tutti gli investitori che a qualsiasi livello, sia investitori istituzionali sia investitori privati, avevano creduto e avevano riposto la loro fiducia nelle imprese e nel valore delle imprese che veniva dichiarato e che poi invece era inesistente. Ecco, su questo fronte i nodi vengono al pettine, ma qualcuno poi i nodi li paga. Allora, come fare in questa prospettiva? Qual è la ricetta, anche se possiamo riassumere un po' i contenuti e la filosofia di questo libro? Che cosa si può fare per migliorare la trasparenza dei mercati, l'informazione degli operatori di mercato e quindi l'efficienza di questi stessi mercati? Allora, intanto l'informazione deve essere sempre un'informazione veritiera, cioè non si può manipolare l'informazione in quanto tale, c'è una grande responsabilità da parte degli operatori, delle aziende nel rilascio delle informazioni, che siano delle informazioni corrette e veritiere, questo è estremamente importante, ma poi altrettanto importante è che le notizie vengano riprese bene, quindi c'è anche una responsabilità da parte di chi le informazioni gestisce, dei media che devono riportare, che oggi spesso sono scandalistici, ma spesso non danno neanche una informazione corretta. La colpa è sempre è sempre un po' dei giornalisti, se posso difendere la categoria. No, direi che c'è una responsabilità su più fronti da parte di tutti. E non solo, ma la mia conclusione finale è che a parità di performance finanziarie gli stessi investitori dovrebbero scegliere di investire su aziende che hanno nel tempo maturato una condotta etica, perché questo diventa una garanzia non solo nei confronti dello stesso investitore che ha investito in una determinata impresa, ma anche a livello sociale. Si rischia che non accadano quei disastri che invece hanno portato a tanti disastri anche sociali, economicamente. Ecco, sotto questa prospettiva è importante anche quello che nel libro viene spesso richiamato il fattore fiducia, un fattore fiducia verso i mercati finanziari, un fattore fiducia anche verso l'economia, verso le prospettive della stessa economia. La fiducia è in fondo una componente fondamentale anche della crescita economica ed è un ingrediente che un po' manca in questo momento. L'informazione forse può fare qualcosa, anche l'informazione istituzionale, l'informazione ufficiale, per dare più fiducia. Certo, assolutamente sì, appunto la qualità dell'informazione deve essere una qualità che tende a creare fiducia negli interlocutori e fiducia anche nei mercati finanziari. In un mondo in cui tutta la condotta degli operatori, delle aziende, delle persone, degli interlocutori, degli stessi politici si basa sulla fiducia, il mercato prospera, il mercato cresce e i mercati non solo commerciali ma anche finanziari, le aziende prosperano e le relazioni tra gli interlocutori diventano più solide. Grazie, speriamo che la fiducia possa crescere. Ringraziamo Bianca Fersini Mastelloni di essere stata con noi, di averci parlato del suo libro, lo ricordo, Investor Relations ed Etica, efficacia e vantaggi competitivi, edito da Guerini, sono 170 pagine per 18,50 euro. Grazie. Abbiamo concluso il colloquio con Bianca Fersini Mastelloni parlando di fiducia, presentando il libro Investor Relations ed Etica. È un libro tutto dedicato alla fiducia, è quello di Eloi Laurent, L'economia della fiducia, edito da Castelvecchi. Eloi Laurent è economista, ricopre numerosi incarichi all'Osservatorio francese di congiuntura economica, all'Istituto di studi politici di Francia, e in questo libro racconta come la fiducia sia l'elemento fondamentale per l'economia, la fiducia delle persone, la fiducia nel futuro, la fiducia come elemento di coesione sociale anche, quindi una fiducia che non si può creare a tavolino, ma che deve essere un risultato di tanti elementi che sono psicologici, sono comportamentali, ma sono anche di scenario politico, sono anche di capacità della politica di affrontare i sistemi e di avere la fiducia delle persone nella stessa politica. Ecco, è un po' un circolo virtuoso quello che si deve costruire attorno alla fiducia, e Laurent illustra i meccanismi di questo circolo virtuoso e cerca di portare i lettori nel fatto di poter avere anche più fiducia del futuro, una fiducia che è anche una fiducia fatta di trasparenza, fatta di affidabilità, fatta di efficienza delle istituzioni, tutte cose certamente difficili ma altrettanto necessarie, e quindi la fiducia è l'elemento fondamentale, direi il pilastro di un'economia sana, di un'economia concreta, un'economia che non sia fondata solo sulle utopie. Vi ricordo Eloi Laurent, L'economia della fiducia, edito da Castelvecchi, 130 pagine per 17,50 euro. Grazie, si conclude qui Economia in Pagine. Vi ricordo che questo programma può essere riascoltato dal sito www.radio24.it.